Rosetto WWF, intervista numero 4 a Chiara Bignardi. Siamo nella sala di rappresentanza del Museo del Bel Riguardo e ho la fortuna di poter parlare con Chiara Bignardi delle sue opinioni, della sua esperienza, del suo vissuto qui a Voghera. Buonasera Matteo, grazie. È un piacere averti qui con noi. Grazie mille. Allora, io parto sempre dalla domanda presente, passato e futuro di Voghera. Bene. Presente, passato e futuro. Cosa preferisci di questi tre? Beh, a me piace molto pensare al futuro. Mm-hmm. Perché il mio passato a Voghera è un passato relativamente lungo, nel senso che io sono di adozione. A Voghera vivo qui dal 2000, quando mi sono sposata ho deciso di venire a vivere qua con mio marito che già abitava a Voghera. E quindi ho memorie non così lontane nel tempo come possono avere altri, però appena ho visto Bel Riguardo io mi sono innamorata di questo posto. E mi piace pensare a quello che potremmo fare per il futuro, oltre a quello che stiamo cercando di fare adesso, giorno per giorno, per il futuro di questo luogo. Allora, hai detto che qualcosa ti ha stregato, qualcosa ti ha colpito nel 2000 quando l'hai visto. Questo luogo mi ha stregato, io mi sono innamorata immediatamente. Mm-hmm. Dico, io sono... È da quando ero piccola che mia zia mitica, ha cominciato a portarmi in giro con lei per città storiche, musei, teatri, insomma mi ha fatto crescere un po' a pane e arte, in qualche modo. E quando sono arrivata a Voghera, vedere un bene... valore inestimabile di questa portata in un piccolo paese, ho detto caspita che fortunata che è Voghera ad avere Bel Riguardo qui. E poi è vero, quando tu passi il portale d'ingresso è come se tu ti trovassi in un'altra dimensione in qualche modo, c'è qualcosa che ti cattura immediatamente, e quindi da lì insomma è partito il mio amore per questo luogo e la voglia anche di provare a fare qualcosa per Bel Riguardo, ma anche per la nostra comunità locale, nella quale io comunque mi sono integrata in questi anni. Come è stato vedere il plastico la prima volta della ricostruzione di Bel Riguardo? È stata una grande emozione, è stata veramente folgorante. Per quanto uno potesse immaginare quello che ci poteva essere all'epoca, per quanto uno possa avere letto, ma vederselo lì e rendersi conto, dopo aver magari visto, come mi è capitato di visitare, Versailles piuttosto che Caserta, piuttosto che Reggio, mm-hmm. di enorme portata, dire qui abbiamo anticipato i tempi di tutti, qui c'era quello che poi a tutti gli altri magari è servito da ispirazione, è stata una grande folgorazione, anche quello ha contribuito a legarmi a questo luogo, pensare a quello che era, all'importanza che aveva. Tanto che è dipinta anche nella sala dei Musei Vaticani, nella grande sala delle carte geografiche. L'immagine di Bel Riguardo è molto evidente. Non lo sapevo. È molto ben rappresentato sull'area geografica della nostra zona. Mm-hmm. Giusto per dire l'importanza che aveva e che ha avuto questo luogo. Quindi insomma è stata un po' da pelle d'oca, anche in un certo senso. Oltre al castello, com'era la Voghera degli anni 2000? Ma la Voghera degli anni 2000 era un paese molto tranquillo. Dove si viveva bene, serenamente, dove ancora insomma, c'era questo bel rapporto, soprattutto sulla mia via, con gli anziani di quel periodo in cui si andava fuori a chiacchierare con gli anziani alla sera, ci si facevano raccontare storie. Era un posto veramente sereno. Ecco, questo sì. Un po' a confronto rispetto a Ferrara o comunque le altre grandi città della regione? Beh, sicuramente, allora io vengo dalla campagna, io sono figlia di contadini, quindi ho sempre vissuto in campagna, in paesi. Ho vissuto la Bologna degli anni universitari e già per me la Bologna, per quanto divertente, ricca, dove c'era veramente di tutto, io soffrivo un po' di spazi cittadini. Per cui la scelta di Voghera per me è stata abbastanza naturale, perché come luogo mi teneva comunque vicino alle mie origini. Gli spazi più ristretti, il poter chiacchierare con le persone, il poter conoscere le persone più facilmente. Poi in città ci si va perché offre tanto, però poi torniamo a casa nostra. Come storicamente? Come storicamente. Distante abbastanza per essere isolata, vicina abbastanza per poter collegare con il resto del mondo. Esattamente. perché poi nel mondo comunque a me piace pensare di viverci nella completezza. Io adoro viaggiare, viaggio sia per lavoro che per piacere, però poi il ritorno, dopo che ho carpito e ho raccolto esperienze e ho maturato esperienze anche di vita, insomma, personali in giro, poi mi piace comunque riportarmele a casa e cercare di sfruttarle qui sul territorio che poi mi ha adottato in un certo senso e mi ha dato delle possibilità che altrove non avevo avuto. Però c'è anche la voglia di ho visto qualcosa di bello fuori, ho visto magari anche dei modelli molto utili da cui imparare e voglio riportarli nel territorio che per sempre, me è nel cuore. Questo sempre, qualsiasi. Adesso ormai la deformazione è andare nei musei, guardare gli allestimenti e dire caspita cosa potremmo fare noi se avessimo quel quid in più o comunque nel nostro piccolo come adattare questa soluzione per rendere più accattivante quello che stiamo facendo. Quindi è un continuo andare a cercare e fotografare situazioni che possono poi tornare buone qui da noi, a piccoli passi per quello che possiamo fare, ovviamente, perché le possibilità sono quelle che sono, però provare a crescere piano piano. Un passettino dietro l'altro, speriamo di arrivare alla meta che vogliamo. Quello, piccoli passi possiamo fare con le possibilità, perché tutti noi siamo poi dei volontari qua, alla fine usiamo il nostro tempo libero. Magari poterlo fare di mestiere, magari poterci si dedicare quotidianamente a questo tipo di attività, per me sarebbe un grandissimo sogno, però non potendolo fare... Cosa ti piacerebbe fare se ti venisse offerto il lavoro come promotore turistico, operatore culturale di Voghera? Qui sarebbe un lavoro a 360 gradi, sia di promozione che di invenzione e creazione. Di nuove prospettive, di nuove attività, di nuove forme per far venire le persone qua, cercare vie per attrarre i giovani, creare possibilità anche per aprire le menti delle persone che arrivano, perché poi è un po' quello lo scopo, tenere le menti aperte, far pensare le persone, farle riflettere, farle appassionare. Sì. E tenerle vive in qualche modo rispetto a un imbruttimento generale del quale sentiamo insomma di essere un po' circondati. È un po' la battaglia, un po' quella, caparbia, resistente, voler tentare di fare questa cosa. E quindi creare nuove opportunità. Ti piacerebbe una Voghera come città di nomadi digitali? Cioè di persone che si trasferiscono avendo la possibilità di fare smart working qui? Che magari poi piano piano iniziano a legarsi sul territorio. Se riusciamo a tirarli fuori di casa, sì. Nel senso che, perché no? Mai sono delle opportunità, un pochino stiamo, anch'io sto sperimentando nello smart. Lo smart va bene, creiamo spazi, però poi tiriamoli anche fuori, sì. Via dal computer. Cioè cerchiamo di dare qualcosa di bello da fare al di fuori di quello, non solo l'on life ma quindi anche lo spazio fisico e il vivere umani. Tra persone e i rapporti umani, che sono forse la cosa più bella e più importante che io ho avuto da quando lavoriamo qui con la nostra sala espositiva e le nostre attività, le tante persone incontrate e i bellissimi rapporti umani che si sono creati con le persone. Un arricchimento per me personalmente pazzesco da questo punto di vista. E con tutto poi quello che ne consegue, quindi la voglia di tornare a incrociare le esperienze, di fare altre attività, di creare altre forme artistiche, insomma, da cosa nasce cosa? E questo è stata forse la cosa, ed è la cosa che mi tiene comunque legata a questo che è diventato comunque un secondo lavoro in qualche modo, che è impegnativo, perché comunque ci vuole un impegno, una presenza di un certo tipo, però... C'è un arricchimento incredibile, diventa forse anche per me un po' egoistico, però dal punto di vista personale una crescita enorme. Ho notato camminando per Voghera che stanno ricostruendo l'ex scuola elementare in una casa della comunità. Volevo chiederti se la Proloco aveva qualche piano di collaborare per l'appunto con questo spazio e che funzione dovrebbe avere per il resto del comune sostanzialmente. Allora, al momento io non sono a conoscenza di attività legate specificamente alla Proloco per questi spazi, che comunque dovrebbero diventare uno spazio polifunzionale a favore della comunità, quindi sì. Perché no? Ecco, anche se forse noi come Proloco ci piacerebbe che la nostra sede fosse proprio qua, a Bel Riguardo, in qualche modo fissi nel nostro posto, che insomma, è come venire a casa, no? Entrare qui, ho capito. Può essere a casa. Non escludo che ci possano essere però delle possibilità. È chiaro che prima si va a compensare tutto quello che serve ai servizi sociali principali. Non escludo nulla, perché poi comunque noi abbiamo un sindaco che è molto aperto comunque alle cose che noi facciamo, perché no? Potrebbe anche essere. Gli altri centri di gravità, diciamo così, del mondo culturale di Voghera, secondo te quali sono, oltre al, immagino, zona, municipio, biblioteca e centro città, diciamo così? Ah beh, dal punto di vista culturale, sì, noi centro focale tra municipio e centro civico, la parte parrocchia ha comunque un'influenza notevole sulla nostra società. Diciamo che la parte storica legata a Villa Massari adesso è diventata molto meno, perché poi una volta c'era più la possibilità di accedere a quel bene, ma adesso è un bene privato che viene aperto una volta l'anno per noi, quindi si è un po' perso il legame forse con quella parte lì. Sarebbe bello che andassimo a recuperare la nostra area archeologica a Voghenza e che avessimo la possibilità noi per primi di poter accedere e fare delle cose senza tutti quei limiti burocratici che poi tante volte sono imposti dalle sovrintendenze, comunque avere più facilmente autorizzazioni. Ci fossero anche soldi per tornare a scavare, chissà quanto potremmo ancora trovare di tante cose belle che sono state trovate in passato, perché tanti arrivano e chiedono di poterla vedere, di poter entrare, però le condizioni adesso non ci sono. Mancano anche poi magari le persone che se ne occupino, ok, tutto si può, però sarebbe bello, perché sarebbe un aggiungere un elemento importantissimo a tutto quello che è la storia e un collegare anche Voghenza, Voghiera di più, creare un po' un circuito virtuoso. Tante cose si potrebbero, quello è un altro punto, sarebbe un altro punto focale importante. Oltre a quello che stavi dicendo adesso sulla questione della burocrazia, dei permessi, del poter fare, secondo te ci sono degli altri ostacoli che tu ritieni davvero molto significativi per la vostra attività? Il classico. Che perlomeno che voi potete risolvere, naturalmente. Ah, quello che noi possiamo, ma non lo possiamo risolvere completamente, perché si finisce sempre a parlare dei costi, quindi dei soldi che mancano per fare tante cose. Tante idee avute le abbiamo dovute abbandonare, perché comunque non c'erano i fondi, non c'erano le possibilità per poterle fare. Io ho il rammarico di tante cose che adesso non si potranno fare più. Noi viviamo di offerte libere, questo è, cioè non è che possiamo dire molto di più. Abbiamo la possibilità di usare questi spazi, di tenerli vivi, però poi quelle che sono le nostre spese primarie vengono pagate attraverso le offerte libere e poco altro che il comune ha la possibilità di darci tramite la Proloco. La partecipazione dei privati, tipo di qualche piccolo imprenditore della zona? Anche lì diventa forse difficoltoso, perché al di là delle partecipazioni classiche alle sagre, alla Fiera dell'Aglio piuttosto che alla Fiera di Sant'Antonio, dove magari qualcosa delle aziende danno, noi comunque siamo un territorio agricolo, non siamo un territorio ricco, non abbiamo industrie, non abbiamo grosse aziende che possono, magari anche in maniera continuativa, sostenerci, quindi c'è sempre stata un po' la difficoltà. In questo senso trovare uno sponsor è un po' un problema, ecco, almeno per quello che abbiamo vissuto noi fino adesso. Dovremmo andare al di fuori probabilmente per cercare qualche aiuto. Allora ti faccio una domanda da un milione di euro, in questo caso anche abbastanza letteralmente, che è una domanda a cui neanche io del tutto saprei rispondere. Che tipo di valore secondo te potrebbe dare la cultura, o Bel Riguardo specificamente, potenzialmente a queste aziende agricole. Una questione di riconoscimento, di immagine, di branding anche all'esterno. Io so che l'aglio di Voghera viene cercato anche solo in Giappone, per esempio. Sì. E tu vedi scritto, e tu sei una persona che va al supermercato in Giappone e vedi aglio di Voghera sopra. Sì, cioè, no, però mi chiedo quali altri veicoli, modi per trovare valore della cultura per il mondo agricolo ci possono essere. Poi una domanda che io non ti so rispondere, volevo chiedere. Ma noi quello che abbiamo visto fino ad oggi è che quello che va molto è legare la cultura al cibo, mm-hmm. al buon cibo, al buon bere. Quando c'è del buon cibo e del buon bere, la gente arriva. È un enorme lubrificante il cibo. E volenti o nolenti c'è questo fattore. Uh-huh. Se facciamo il buffet a fine spettacolo, le persone sono più contente anche di venire. Non è forse bellissimo da dire, però è un tipo di sinergia che oggi funziona. L'abbiamo visto anche a Palazzo dei Diamanti a Ferrara, quando hanno aperto un buon bar, ristorante a fianco. Un successo. Uh-huh. Sono sinergie che io ho visto recentemente a Monaco di Baviera, diverso, ma sono negozi, shops che hanno all'interno una joint venture con un bar piuttosto che un piccolo ristorante. Quindi nello stesso luogo aziende che si uniscono e uniscono il food all'abbigliamento, uh-huh. o ad altre cose da vendere. Quindi a quanto pare queste sono sinergie che possono funzionare, quindi potrebbe essere una leva. Questa è una leva. Per attirare i giovani questo molto probabilmente non basta. L'eterno problema dei giovani, noi effettivamente abbiamo comunque, c'è una riduzione demografica, c'è poco da fare rispetto alla generazione nostra, eravamo numerosissimi. E c'erano compagnie grandi anche nei piccoli paesi, adesso i ragazzi sono molti meno e tendono a starsene attaccati ai cellulari o comunque proprio a uscire dal paese, andare a cercare dell'altro, che ci può anche un po' stare, perché giustamente loro devono essere più cittadini del mondo di noi, in qualche modo, per come si è configurata la società di oggi, devono guardarsi un po' attorno. Però sarebbe bello che non dimenticassero da dove vengono, e quindi però per attirarli lì la leva comincia a essere impegnativa, perché dovresti cominciare a offrire cose, spettacoli piuttosto che anche adatti, molto mediocremente il lavoro, adatti alla loro, il lavoro per restare sul territorio, ma l'aspetto del fare cultura per la vista, o comunque per entrare in questi luoghi e interessarli, e appunto tenergli aperta la mente anche in ambito culturale, dovresti dare un'offerta di quella che a loro piace, dovresti riuscire ad avvicinarti a loro, e queste sono cose che da organizzare sono abbastanza impegnative, quindi ci vuole comunque un gruppo molto coeso che possa assorbire un impatto non facilissimo se comincia ad arrivare un bel po' di ragazzi. Io, perché ci sono dentro con mia figlia al mondo del K-pop, se io creassi un evento K-pop qui, secondo me arrivano a frotte, però poi devi essere anche in grado di ospitarli e di offrire quello che loro si aspettano. Quindi ci sono mille cose che si potrebbero fare. Ma secondo te è più una questione di linguaggio o contenutistica? Cioè, per attirare veramente i giovani, si tratta di una questione di parlare del loro linguaggio o magari di parlare di ciò che gli interessa? Entrambe. O perlomeno entrambe. Entrambe. Okay. Il contenuto non può prescindere dal loro linguaggio, da quello che sto vivendo io con i giovani. Quindi sono proprio strettamente connesse. Bene. Nel museo qui, e allora, quindi ti piacerebbe vedere l'altra ala che c'è di là, grande quanto questo museo qui, cosa ci vedresti? Un ristorantino, un negozio di abiti del 1400-1500? Potrebbe essere un po' tutto, un piccolo bar piuttosto che un piccolo ristorante, piuttosto che un piccolo shop che possa offrire cose, ma anche cose di vario tipo, perché poi dopo ci sono questi negozi che vendono la sveglia piuttosto che il berretto. C'è di tutto un po', qualcosa che comunque sia a tema, che resti collegato con l'arte, noi ci occupiamo di arte contemporanea e quindi qui si può spaziare moltissimo in questo senso. A me piace dipingere gli abiti, quindi per dire, cioè potrei anche tentare di metterci dentro qualcosa di questo tipo per variare. Poi ho in testa nel nostro spazio questo angolo salotto da dedicare alla lettura, a letture di comunità, piccoli incontri, ci facciamo un tè, chiacchieriamo, affrontiamo degli argomenti, avere uno spazio polifunzionale alla fine che possa attirare non solo perché c'è la mostra, ma incontriamoci, non sapete dove andare a domenica, fate un salto qua, stiamo in compagnia, facciamo un'attività assieme. Sì. Ci leggiamo un libro piuttosto che prendiamo un argomento e ne parliamo, ne discutiamo, ci ascoltiamo un po' di musica, una cosa di questo tipo. E soprattutto ci parliamo di persona. O se possibile facciamo anche parlare di persona anche tra di voi. Esattamente, esattamente. Perché vedo che tutto quello che, almeno le cose che abbiamo fatto ad oggi, che sono stati dei piccoli spettacoli, comunque delle attività con delle tematiche su cui riflettere, abbiamo fatto lo spettacolo sul Vaillant piuttosto che a dicembre un doppio evento in cui si parlava di stalking, e le persone arrivano perché si interessano comunque alle tematiche importanti e vanno a casa ringraziandoci con un bagaglio personale arricchito, e ci ringraziano di questo. Quindi vedo che comunque la voglia di incontrarsi c'è, a me piace l'idea di proseguire su questo tipo di strada. Bene, ti ringrazio assolutamente per questa intervista molto interessante. Grazie a te, grazie. Sono davvero ti ringrazio anche per aver condiviso un po' la prospettiva di persone che lavorano, amano il territorio, vogliono vederlo risplendere, quindi è anche proprio un piacere vedere la passione nei vostri occhi, che purtroppo non possiamo trasmettere tramite soltanto questo canale orale, ma però garantisco che è tutta grande passione, perché altrimenti difficilmente ti metteresti in un impegno di questo tipo. Però veramente c'è una passione enorme dietro, e quindi la voglia, finché si potrà, di andare avanti assolutamente. Grazie ancora, grazie a te.